GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Lo smart working non è finito con il Covid. Definite le strategie per il lavoro agile di aziende grandi e piccole e il contributo della regione. Rinnovabili come risposta al caro energia. Le aziende della regione hanno aderito agli appelli. Il bilancio di Confindustria Alto Adriatico. Chiede aiuto con un messaggio su Facebook il marito della donna che da 3 giorni è scomparsa a Trieste uscendo di casa e non facendovi più ritorno. L'associazione Diritti del Malato organizza questa mattina un flash mob davanti all'ospedale di Udine per tenere alta l'attenzione sul sovraffollamento del pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia che, secondo l'associazione, risente della chiusura dei punti di primo soccorso di Cividale e Gemona. Presentato un progetto da 28 milioni di euro per il nuovo Pala Carnera a Udine, una sinergia tra pubblico e privato per aumentare la capienza e contenere i costi. Atteso dal governo della finanziaria il via libera alla caccia ai cinghiali, si apre il confronto, si dicono favorevoli gli agricoltori della regione. Con l'aumento del traffico merci al porto di Monfalcone cresce anche la richiesta di personale specializzato. Al via i corsi per la formazione professionale dei lavoratori portuali. Calcio in Serie C, il Pordenone capovolge il risultato contro la Triestina nei minuti finali e si aggiudica il derby all'ultimo respiro per 2-1. In attesa delle gare di oggi, Neroverdi primi in classifica, Labardati terzultimi. Nel basket, Udine torna a volare al Pala Carnera, battuta Ravenna 97-71. Grande prova di Brisco, cecchino al tiro. In classifica a Lanciata Nardò al quarto posto. Le 7:19 minuti e 45 secondi, buongiorno, questi titoli, buongiorno ancora da Giorgio Bears e Daniele Lettig che condurranno questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 23 dicembre. In apertura diamo come sempre uno sguardo alla situazione del meteo con le previsioni per oggi. Il cielo è coperto su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 6, a Trieste ci sono 9,5 gradi, a Gorizia 7,5 gradi, a Udine 7 gradi, a Pordenone 6, a Tolmezzo 6 gradi, a Tarvisio 2, a Forni di Sopra 1,5 gradi, a Piancavallo 0,5 gradi sotto lo zero, a Sappada -1 grado, sul Monte Lussari -1 grado, sullo Zoncolan -2,5 gradi, sulla costa Lignano 8 gradi, a Grado 8 gradi e 5 decimi. Queste le previsioni per oggi. Su bassa pianura e costa cielo in prevalenza coperto, con possibile pioviggine, specie ad est. Sull'alta pianura nuvoloso variabile, sulla zona montana cielo poco nuvoloso. Possibili foschie o nebbie, specie su bassa pianura, costa orientale e carso. Lo zero termico rimarrà piuttosto elevato, attorno ai 2500 metri di quota circa, con inversione termica a fondo valle più marcata al mattino. Scoperto per necessità in pandemia, oggi divenuto strumento irrinunciabile sia nel settore pubblico che in quello privato, parliamo di smart working, e le aziende puntano a offrire un pacchetto di giornate al mese per rendere più attraente il posto di lavoro. La regione ha stilato un vademecum per insegnare alle piccole e medie imprese come introdurre la flessibilità in azienda. Flessibilità è la parola magica dei nuovi contratti di lavoro. Lo smart working che il governo in finanziaria vuole limitare ormai solo per i lavoratori fragili, in Friuli Venezia Giulia è utilizzatissimo sia nel pubblico che nel privato. E se le grandi aziende, Generali, Allianz, Fincantieri, hanno introdotto per contratto la flessibilità con 1 o 2 giorni a settimana di lavoro da casa per tutti, le piccole e medie imprese stanno appena imparando. Ad aiutarle la regione che con l'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa a gennaio presenterà un pacchetto di strumenti. Lidia Alessio Verni, direttrice Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa. Alle volte la PMI, la piccola impresa, potrebbe avere più difficoltà rispetto alla grande impresa ad acquisire nuovi strumenti operativi e questo potrebbe porla anche in una situazione di svantaggio in quella che è un po' la competizione in questo momento anche per reperire nuova forza lavoro. I lavoratori, merce ormai rara in molte attività economiche, oggi apprezzano di più la flessibilità rispetto a qualche soldo in più in busta paga. Un paradigma lavorativo che risulta anche attrattivo per alcune tipologie di lavoratori, magari di alte qualifiche o tecnicalità, che sanno di poter operare da remoto e cercano organizzazioni che gli offrano questa opportunità. In questo modo l'azienda, se riesce ad attrezzarsi, può essere più attrattiva per queste figure di cui spesso c'è bisogno. Digitalizzare i servizi, del resto, è una necessità anche per il pubblico. La montagna friulana, per esempio, fatica a coprire i servizi comunali per mancanza di personale. Ecco che Gemona ha ottenuto 100.000 euro di finanziamento regionale per collegare con la tecnologia 70 comuni dalla Carnia alle Valli del Torre. Roberto Reveland, sindaco di Gemona. Un cittadino di un comune un po' più periferico può rivolgersi attraverso uno sportello digitale a questo e collegarsi con un funzionario che è posto a distanza di qualche chilometro e che gli possa fornire tutte le informazioni necessarie. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Anche grazie alle comunità energetiche, le aziende della Confindustria Alto Adriatico sono riuscite in parte a mitigare i forti rincari energetici e nonostante le tante difficoltà di questo 2022, l'anno è andato meglio del previsto. Le imprese del Friuli Venezia Giulia si sono messe al riparo dai costi esorbitanti dell'energia attraverso la pronta installazione di impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili. Lo rilevano gli industriali di Trieste, Gorizia e Pordenone riuniti per il bilancio di fine anno. Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico. Abbiamo attivato un consorzio per le imprese per attivare tutte le iniziative per l'efficientamento energetico, sta funzionando molto bene, ci attendiamo un'ulteriore forza di questa iniziativa con i provvedimenti che la Regione sta per varare e quindi noi confidiamo che nei prossimi 6 mesi investimenti importanti dal punto di vista dell'autoproduzione di energia ci saranno. Nonostante un rallentamento nel secondo semestre, l'anno è andato meglio del previsto. Alcune aziende hanno deciso una chiusura per le feste più lunga che in passato per risparmiare su busta paga e bollette, ma si tratta di una misura in gran parte precauzionale. Anche il ricorso agli ammortizzatori sociali è stato minore del previsto. Massimiliano Ciarrocchi, direttore generale Confindustria Alto Adriatico. Il ricorso c'è stato ma limitato. Ci sono a macchia di leopardo alcune situazioni di crisi, chiaramente anche già che provengono dal passato, però niente di allarmante. Bisognerà capire cosa succederà nel 2023, dove invece ci sono ovviamente delle variabili in gioco che cambiano in continuazione, quindi fare delle previsioni è veramente molto complicato. Per la prima metà del prossimo anno potrebbe diventare realtà il progetto di una Confindustria unica del Nord-Est tra imprese e Confindustrie di tutto il Triveneto. Michelangelo Agrusti, presidente Confindustria Alto Adriatico. Il Nord-Est è un'area assolutamente omogenea, sia per quanto riguarda le tipologie di produzione e tutto il resto, per cui dobbiamo lavorare non solo per federare le Confindustrie, ma per federare il sistema più in generale, quindi infrastrutture, università, formazione, sanità. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Continua il supporto di Invitalia per lo sviluppo e il miglioramento del porto di Trieste. Per conto dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale è stata pubblicata una nuova procedura di gara nel valore di 4,2 milioni di euro per affidare i servizi di verifica dei progetti su interventi di potenziamento dello scalo giuliano. Nello specifico, gli interventi finanziati dal Piano Nazionale riguardano il nuovo terminal delle Noghere attraverso l'incremento delle banchine disponibili e la ristrutturazione di quelle esistenti presso il canale industriale di Zaule, l'ammodernamento e il miglioramento del molo settimo e l'estensione del punto franco nuovo con la realizzazione di collegamenti viari e ferroviari e la realizzazione di nuovi edifici funzionali allo scalo. Con l'aumento del traffico merci al porto di Monfalcone cresce anche la richiesta di personale specializzato e così sono nati dei corsi per la formazione professionale dei lavoratori portuali. Sarà in avvio a fine gennaio l'iniziativa di formazione professionale per una 50 di lavoratori da impiegare nello scalo marittimo di Monfalcone, con l'obiettivo di inizio attività entro settembre. I candidati con esperienza, con competenze come la guida di un carrello, la movimentazione delle merci, saranno avvantaggiati nella selezione, ma sulla carta non esistono barriere all'ingresso, come chiarisce il presidente di Impresa Alto Adriatico, Mitter Mandolini. Un giovane rispetto a uno che ha un'età un po' più avanzata avrà un diritto, una prelazione rispetto all'assunzione diretta, ma siamo aperti a qualsiasi tipo di possibilità. L'iniziativa è intesa a far fronte all'aumento del traffico merci, con incrementi registrati dagli operatori di circa il 12%, e si armonizza nel piano di sviluppo portuale che include la maggior lunghezza e il maggior pescaggio della banchina, oltre all'accresciuta area di stoccaggio, in convivenza con le attività croceristiche. Uno sviluppo necessario a mantenere competitività verso le evoluzioni del settore, spiega l'amministratore delegato di FHP Monfalcone, Giancarlo Russo. Che totalmente diverse rispetto al passato, dovute anche purtroppo al conflitto in Ucraina e al caro energia, con un naviglio estremamente più grande, più massivo come operatività e anche come ormeggio alle banchine, essendo navi oramai di oltre 220-230 metri. Monfalcone e Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo i primi incontri bilaterali, si è svolta ieri la prima riunione del tavolo lanciato dal Partito Democratico con l'obiettivo di costruire un'alternativa al centrodestra alle prossime elezioni regionali. In un noto albergo di Udine, un faccia a faccia a cui erano invitati i rappresentanti di Patto per l'Autonomia, Civici FVG, Open Sinistra FVG, Unione Slovena, Alleanza Verdi Sinistra, Articolo 1 e Più Europa. Forze riformiste, progressiste, civiche e ambientaliste, come ha chiarito il segretario del PD Renzo Oliva, che si danno l'obiettivo di essere pronte per le elezioni regionali anche con un candidato presidente condiviso per metà gennaio. Un tavolo che resta aperto ad eventuali contributi ulteriori, non ultimo, ha chiarito ancora Oliva, quello del Movimento 5 Stelle, che avrà accesso a tutte le informazioni. Se riterranno di avvicinarsi, ha detto Oliva, lo faranno sapere e il tavolo ne prenderà atto. La discussione ha poi riguardato diversi temi ancora aperti, nella consapevolezza che i tempi per giungere ad una definizione completa dell'alleanza sono stretti. Si tratta di una partita difficile, è stato detto, ma che non è scontata in partenza e che va giocata fino alla fine. La cronaca. Chiede aiuto con un messaggio su Facebook il marito della donna che da 3 giorni è scomparsa a Trieste, uscendo di casa e non facendovi più ritorno. Sono proseguite anche dopo il tramonto ieri e riprenderanno stamattina le ricerche di Alessia Bola, 42enne che non dà più notizia di sé dalla notte tra martedì e mercoledì. La donna è uscita di casa attorno alle 2 del mattino portando con sé alcuni documenti, il portafoglio e le carte valori, ma non il telefonino. Sul cellulare del marito invece è lanciato un messaggio: abbi cura dei nostri figli, i 2 bambini della coppia. Il marito, solo dopo alcune ore, non vedendola rientrare, si è deciso a sporgere denuncia ai carabinieri di Aurisina. Sono scattate le ricerche da parte dei militari dell'arma con i vigili del fuoco, la protezione civile e il soccorso alpino. L'auto della coppia con cui la donna si era allontanata è stata individuata dal marito grazie al GPS, parcheggiata a circa 0,5 chilometro dal sentiero Rilke. Sotto il parabrezza dell'auto l'uomo ha lasciato un messaggio: ti prego, tesoro, torna a casa. Ricerche che sono proseguite anche dall'aria con un elicottero e dal mare con la motovedetta dei vigili del fuoco. Il marito, Aaron Burney, ha diffuso un messaggio di aiuto attraverso i social. La donna è uscita di casa con un giubbotto nero a 3/4 e una sciarpa ocra. Chiunque l'abbia vista è invitato a contattare i carabinieri. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, a Trieste è arrestato dalla polizia un 38enne pugliese accusato di lesioni, danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'episodio è accaduto presso un locale di via Economo, il cui titolare era stato poco prima ferito al volto con un coccio di bottiglia da un avventore entrato in evidente stato di alterazione alcolica e che era stato invitato per questo ad uscire. L'uomo si era poi dato alla fuga, ma è stato rintracciato poco dopo sul vano scale di uno stabile dove tentava di nascondersi e bloccato dagli agenti con ancora in mano un collo di bottiglia spezzato. Il titolare del locale è stato medicato presso l'ospedale di Cattinara con un intervento di sutura per una ferita al volto. Intervento dei vigili del fuoco a Cividale nella serata di ieri per spegnere l'incendio scoppiato sul tetto di un'abitazione in un borgo storico in via Monastero Maggiore. Le fiamme sono state spente prima che si propagassero all'intera copertura, limitando i danni ad una piccola porzione di tetto. Il personale sanitario ha visitato sul posto le 2 persone anziane che si trovavano all'interno dell'alloggio, che fortunatamente non hanno riportato conseguenze. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse in tarda serata. L'Associazione Diritti del Malato ha organizzato per oggi alle 11 un flash mob davanti all'ospedale di Udine per tenere alta l'attenzione sul sovraffollamento del pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, che secondo l'associazione è stata aggravata dalla chiusura dei punti di primo soccorso di Cividale e di Gemona. Abbiamo intervistato la presidente dell'associazione, Anna Grizzi, sentiamo. Abbiamo organizzato questo flash mob perché il pronto soccorso di Udine si trova in grosse difficoltà dal punto di vista dei tempi di attesa per quanto riguarda i pazienti, e anche lo stesso personale è in grossa sofferenza per il carico di lavoro. Noi infatti chiediamo che venga aumentato il personale e sostenuto il personale dell'ospedale di Udine, proprio perché c'è un eccessivo sovrannumero di persone che si rivolgono al pronto soccorso di Udine, dovuto anche allo smantellamento dei servizi territoriali nelle zone delle valli del Natisone, del Gemonese, delle zone montagnose, del Friuli Venezia Giulia, Maniago e Facile. Per questo noi chiediamo che venga riformata la sanità friulana con appunto un aumento del personale, soprattutto nei punti nevralgici come il pronto soccorso di Udine. La vostra associazione ha avuto delle interlocuzioni con la regione riguardo a queste richieste? Sì, noi chiaramente mandiamo le segnalazioni, ma diciamo che la risposta è che effettivamente c'è questa carenza di personale, quindi ci aspettiamo una riforma seria e una presa in considerazione di questa problematica, però non con l'appoggio alle strutture private. Ecco, invece riguardo al problema della scarsità dei medici di famiglia, anche su questo si muove la vostra associazione? Sì, certo, ma infatti anche questa, la mancanza dei medici di famiglia è molto presente, in quanto molti medici stanno andando in pensione e sono andati in pensione, ed è per questo che anche molti pazienti e persone che hanno problemi di salute, non potendo fare riferimento al proprio medico di famiglia, vanno poi in pronto soccorso. A Udine è presentato il progetto del nuovo Palacarnera, potrà contenere 7.000 spettatori e costerà 28 milioni di euro. Il nuovo Palacarnera si farà proprio dove c'è l'attuale Palacarnera, senza demolizioni, senza interruzione dell'attività sportiva. Il vecchio palazzetto sarà incapsulato nel nuovo impianto. La capienza passerà ad oltre 7.000 posti, ricavati da un ulteriore anello realizzato sopra quello presente. La forma ricorderà un po' quella del vicino stadio dell'Udinese. Sul tetto una grande palla da basket a ricordare le ambizioni di una società che punta al salto in A1. I lavori potrebbero iniziare nell'autunno 2023 e durare meno di 3 anni. Il progetto da 28 milioni è stato presentato a Udine dai rappresentanti della giunta e dagli investitori. Un partenariato in cui pubblico e privato condividono pressoché a metà le spese, 14 milioni a testa. I primi 3 sono già stati stanziati dalla regione e subito pareggiati dagli investitori. Alessandro Pedone, presidente dell'APU Udine e investitore. Abbiamo già fatto un aumento di capitale allineandoci a quello concesso dalla Regione al Comune di 3 milioni e adesso si passa invece a una fase esecutiva di generazione e creazione dei progetti di dettaglio. Pietro Fontanini, sindaco di Udine. Con questo intervento riusciamo a aumentare i posti, la capienza e soprattutto anche conteniamo i costi energetici. Abbiamo spiegato alla Regione il progetto, la Regione l'ha condiviso, quindi ci dà una mano finanziaria e poi soprattutto ci sono i privati che intervengono. Un secondo campo indoor, convertibile in sala congressi, hotel, centro benessere, tutta la struttura intorno, polifunzionale, nasce con un'idea ben precisa. Gabriele Ritossa, investitore. Cercare di non ripetere quello che c'è già in giro, quindi a Udine manca una spa, a Udine manca un appart hotel con albergo business, ma soprattutto un appart hotel, e queste sono le esigenze, riportare sicuramente la concertistica nel palazzetto. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Inaugurate le nuove residenze universitarie di Casa Burgard in Borgo Stazione a Udine. L'edificio, di proprietà privata, è stato concesso in affitto per 10 anni all'ARDIS, l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio, che a sua volta ha ricevuto dal PNRR un contributo di 3.720.000 euro a parziale copertura del canone annuo e dei costi di servizi di gestione. Lo studentato è riservato a studenti meritevoli con reddito basso, non solo universitari, ma anche allievi dell'Istituto Tecnico Superiore Malignani. La struttura comprende 45 alloggi in un'area di 7.700 metri quadrati e potrà accogliere fino a 93 ospiti. Oltre ai mini appartamenti saranno presenti anche un'aula studio dotata di 44 postazioni e altri servizi, tra cui una sala relax, una palestra attrezzata, una lavanderia self-service e parcheggi destinati sia ad auto, moto e bici, sia a mezzi elettrici. Dal 2018 a oggi, ha spiegato l'assessore regionale all'università Alessia Rosolenghi, intervenuta all'inaugurazione, il numero di studenti aventi diritto alle borse di studio in Friuli Venezia Giulia sono passati da 4.900 a oltre 5.500. Nella manovra di fine anno il governo ha inserito anche la possibilità di abbattere liberamente gli animali selvatici in città, una misura che raccoglie il plauso degli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Via libera all'abbattimento dei cinghiali anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e quelle urbane. Lo prevede un emendamento inserito nella legge di bilancio ed approvato in commissione che consente gli abbattimenti di fauna selvatica per motivi di sicurezza stradale anche in città. I cinghiali abbattuti saranno sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e, se ritenuti sicuri, destinati al consumo alimentare. L'invasione delle colture da parte della fauna selvatica, cinghiali in particolare, particolare, ha raggiunto livelli intollerabili. Negli ultimi 10 anni, secondo una stima di Coldiretti Nazionale, la presenza di questi animali è praticamente raddoppiata, un vero e proprio esercito che assedia le campagne dalla pianura alla montagna, con attacchi quotidiani alle colture, dice Cesare Magalini, direttore Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, radendo al suolo campi di grano, mais, orzo e altro. Il fenomeno riguarda soprattutto il Carso, ma non solo, anche le province di Gorizia, quella di Udine e di Pordenone ne sono colpiti. Quindi, e conclude Magalini, non solo danni in agricoltura, ma anche per la sicurezza statale, come testimoniano diversi fatti di cronaca. Negli ultimi anni anche alcuni quartieri periferici della città di Trieste hanno fatto i conti con le scorribande di cinghiali a causa di residenti che offrono loro da mangiare o del non corretto smaltimento dei rifiuti. In regione dovrebbero essere 80 i cacciatori abilitati agli abbattimenti, secondo il dottor Maglio Palei, direttore del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione, e l'abbattimento non comporterebbe dal punto di vista sanitario alcun problema, in quanto in Regione non ci sono casi di peste suina. Certo, continua Palei, bisogna garantire sempre le misure di biosicurezza e smaltire in maniera corretta i rifiuti animali. Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. E siamo allo sport con il calcio. Allo stadio Teghi di Lignano, il Pordenone riesce a rovesciare l'esito del derby con la Triestina negli ultimissimi minuti di gioco, conquistando così la vittoria per 2-1. Neroverdi primi in classifica, mentre gli Alabardati terzultimi in attesa delle gare di oggi. Il derby, come all'andata, è del Pordenone che vince al 95esimo e ritorna, almeno per ora, in vetta alla classifica. A spezzare l'equilibrio al 13esimo del primo tempo, la Triestina con il gol di Adorante che raccoglie l'assist involontario della difesa neroverde. Alabardati in controllo per tutto il primo tempo, le proteste del tecnico della Triestina sono per un presunto fallo da rigore di Festa, il portiere della squadra di Di Carlo, su Adorante. Oggi la squadra ha fatto una grande partita e meritava di avere dei punti, se non tre, almeno uno. Io penso che la decisione del primo tempo è molto chiara, insomma, no? Cioè, è troppo chiara. Nella ripresa il Pordenone attacca ma non crea pericoli fino all'89esimo, quando Burrai calcia la punizione che batte Mastrantonio. Al quinto minuto di recupero la rete di Piscopo, servito da Giorico, che fa esplodere la panchina neroverde e fa ritrovare un successo che mancava da 5 gare. Sentiamo l'allenatore del Pordenone, Mimmo Di Carlo. Vincere al 93esimo, dove per 3 volte siamo stati raggiunti in questo inizio di campionato e abbiamo perso quei 6 punti che ancora oggi ci stavamo rammaricando, e oggi finalmente li abbiamo recuperati contro una ottima Triestina, che gli facciamo i complimenti. Ma vincere una partita così significa anche avere un cuore, un carattere, soprattutto chi è subentrato nel secondo tempo. Abbiamo cercato di imprimere un po', prima di tutto, il ritmo più alto, e chi è subentrato ha fatto la differenza. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel basket, Udine torna a vincere. Al Palacarnera batte Ravenna 97-71 con una grande prova di Brisco, cecchino al tiro. In classifica ora Lapu aggancia Nardò al quarto posto. Udine torna a vincere dopo 2 sconfitte di fila. Al Palacarnera un successo per 97-71 su Ferrara, e gran parte del merito va ad Isaiah Brisco, autore di 21 punti, frutto di una gara spaventosa per precisione. 8 su 8 da 2, 1 su 1 da 3, 2 su 2 nei tiri liberi. Partenza sostanzialmente equilibrata, con lunghi parziali da una parte e dall'altra, ed equilibrio che si rompe nel secondo quarto, chiuso da Udine con 17 punti di margine sul 52-35. Il divario si allarga ulteriormente nella terza frazione, arrivando addirittura a più 28 grazie alla tripla di Sherrill. A quel punto la gara non ha più storia e viene facilmente controllata dagli uomini di Bonicioli. In classifica Udine aggancia Nardò al quarto posto, ma con una partita in meno. Il campionato si ferma per un paio di settimane. Si torna in campo il 4 gennaio, Udine va a San Severo, mentre l'altra friulana, Cividale, ospita Mantova. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Il viaggio della torcia di Eyjof, il festival olimpico della gioventù europea che si terrà a gennaio in Friuli Venezia Giulia, farà tappa oggi a Gorizia, città capitale europea della cultura del 2025, insieme a Nova Gorica. L'accensione del braciere si svolgerà nel giardino pubblico di Corso Verdi alle 17, con una cerimonia a cui parteciperanno le istituzioni cittadine insieme ai rappresentanti del movimento sportivo del territorio. A EIOF 2023 Friuli Venezia Giulia sono attesi 2.300 partecipanti, di cui 1.300 atleti provenienti da 47 nazioni europee in rappresentanza di tutti i comitati olimpici nazionali, mentre sono 109 le competizioni sportive in calendario. Da oggi Promoturismo FVG ha disposto alcune nuove aperture di impianti di risalita e piste. A Forni di Sopra aprirà tutto il Varmost e il Fantasy Park, mentre per il D'Avosto occorre attendere l'evoluzione meteo. A Osauris di Sopra lo ski lift e la pista, oltre al campo scuola già operativo. A Sappada da domani aprono le due seggiovie del 2000 e dal giorno di Natale Nevelandia. A Sella Nevea da sabato apre la risalita per sci alpinisti Gilberti Prevala. È aperto l'anello di fondo in quota e il martedì riprendono le giornate dedicate allo sci alpinismo. A Tarvisio apre l'intera pista di Prampero e la seggiovia dell'Angelo con relative quattro piste e collegamento basso. Sono aperti il parco giochi, il bob su rotaia, l'anello di fondo dell'Arena Paruzzi e il circuito di fondo della Val Saisera. Sullo Zoncolan tutto aperto ad eccezione della pista Tamai 2 con l'apertura della pista 1 e quella di rientro a Ravascletto. La nuova pista di sci di fondo dello Zoncolan è accessibile dalla funivia di Ravascletto. Alle 7.44 minuti cominciamo la rassegna stampa di oggi con il piccolo edizione di Trieste. Il titolo di apertura riguarda l'area logistico-industriale di Via Cavoto. Rinasce l'ex polo delle Coop, 180 dipendenti. La società partecipata da Parisi e Simetal decolla. Nei magazzini 250.000 pezzi Mitsubishi all'anno. Colpisce il fatto che l'ultimo bene dell'ex Coop operaie, andato venduto 2 anni fa dopo una raffica di aste andate deserte, non sia più una struttura dimenticata, ma un compendio logistico-industriale da 27.000 metri quadrati. Trieste Capodistria, l'alleanza tra i porti sulle rinnovabili ricavate dal mare, ipotesi di joint venture pubblica al 50%. In ballo c'è la produzione di energia elettrica grazie ai campi fotovoltaici previsti nel Golfo. Si torna ancora a parlare della cabinovia, le novità contenute negli ordini del giorno condivisi dalla Giunta, previsti collegamenti con tram e faro della Vittoria, stazioni aggiuntive, Tapirulen e un ponte, ora rispunta l'ipotesi Montegrisa. Stadio Ferrini, quale futuro dopo il no della Triestina? L'ufficialità del disimpegno per il mega progetto di recupero arriva dalla nota congiunta della società col municipio. Dalla politica arriva la richiesta, sia la casa dei dilettanti. Infine, per la cronaca, patteggia il truffatore dei serramenti, 3 anni e 2 mesi per l'uomo accusato di intascare gli anticipi senza finire i lavori pattuiti. Costi nelle case di riposo, tariffe più care nel 2023, spese in crescita fino a 5-9 euro al giorno a ospite per inflazione ed energia. È questo il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine. A centropagina la fotonotizia dedicata a nonna Regina che festeggia i suoi 102 anni tifando l'APU che vince. E in basso un'altra fotonotizia più in piccolo illustra il rendering del progetto per il nuovo Palasport Carnera. In prima trovano spazio poi i richiami ad alcune altre notizie. Pronta in Borgo Stazione la casa dello studente da 93 posti e ragazzo si ubriaca, il questore chiude il crepapelle per 7 giorni. Al rinnovamento del Carnera è dedicata l'apertura delle pagine della cronaca cittadina. Avrà oltre 7.000 posti e potrà ospitare concerti. Previsti anche un albergo da 120 camere, un apart hotel e una spa di 1000 metri. Investimento da 28 milioni, 15 a carico dei privati. Anche il dorso udinese del Gazzettino titola sui rincari nel settore dell'assistenza. Badanti più care, stangata di Natale. In regione l'aumento riguarderà più di 21.000 famiglie e gli aiuti dei comuni non bastano più a coprire i costi. Una fotonotizia richiama poi un'intervista al sindaco Fontanini. Convincerò Salvini a recuperare la Safau. Spazio infine al progetto del nuovo Carnera e alla vittoria dell'APU con Ferrara. Dalla prima pagina del piccolo edizione di Monfalcone, traffici in crescita allo scalo con 50 assunzioni in arrivo, organico da implementare, al via in gennaio un piano di formazione diviso per gruppi e destinato a proseguire fino a settembre. Investiamo in risorse umane. Poi la cronaca, 18enne muore in casa per un malore, era stata visitata al pronto soccorso, la ragazza era stata accompagnata dalla madre al San Polo e dimessa dopo accertamenti, possibile l'autopsia per chiarire le cause della morte. Pista di ghiaccio, musica e shopping, il Natale Goriziano entra nel vivo, inaugurata in Piazza Vittoria, lo spazio per il patinaggio a disposizione di tutti, anche un pianoforte in Corso Verdi. Decolla il progetto carcere all'ex Pitteri, intesa con il Ministero entro l'anno. L'ex scuola destinata a diventare una dépendance della casa circondariale con spazi appositi per detenuti e guardie penitenziarie. A Grado la clinica Santa Eufemia diventerà un albergo nel 75% dell'edificio, approvata in consiglio la variazione della destinazione d'uso. Resta il settore sanitario e quello del benessere. Anche l'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto apre sui rincari nelle case di riposo, mentre la fotonotizia a centropagina è dedicata al Pordenone che in Serie C ribalta la Triestina e vince il derby al 94esimo. In alto un richiamo al bilancio di fine anno di Confindustria Alto Adriatico. A Grusti il prossimo anno rallentamenti, ma ci saranno spiragli per la ripresa. E un altro richiamo alla politica, 2 milioni nei conti della regione per la buona uscita dei consiglieri. A fondo in pagina invece si parla di Miss Italia, in un concorso senza copertura TV, la pordenonese Maria non ha avuto fortuna. Le pagine della cronaca cittadina si aprono sulla situazione dei rifiuti. Città invasa, un terzo del personale colpito dall'influenza. Tantissime le segnalazioni da tutti i quartieri, pesa anche l'e-commerce. Il primo titolo delle pagine di Pordenone del Gazzettino è sempre dedicato ai rincari per gli stipendi delle badanti, mentre a centropagina c'è una fotonotizia sulla vittoria del Pordenone. Sempre a centropagina una notizia di cronaca, infermiere al telefono, guida la rianimazione, salvato un 45enne. In basso, infine, un pezzo è dedicato ai ristoranti, feste a metà tra pienone e chiusure. Alcuni appuntamenti di oggi, un incontro commemorativo e di omaggio alle vittime regionali dell'amianto si terrà questa mattina a Monfalcone con inizio alle 10.30 al Museo della Cantieristica. Partirà oggi da Trieste un carico di giocattoli, biscotti e cioccolata destinato ai bambini della città ucraina di Mykolaiv. La raccolta, promossa dal comune assieme ai volontari della Protezione Civile della sezione ANA di Trieste, nasce dalla richiesta del sindaco ucraino che in una lettera al collega di Trieste di Piazza aveva sottolineato le difficoltà crescenti per le famiglie della città e chiesto un segno di solidarietà nei confronti dei più piccoli in occasione del Natale. L'iniziativa si colloca nell'ambito della missione Trieste abbraccia la città di Mykolaiv, già avviata nei mesi di aprile e di luglio con l'invio di due carichi di aiuti umanitari pari a oltre 55 tonnellate di generi alimentari, medicinali e cibo per animali. Questa mattina all'esterno del padiglione 7 dell'ospedale di Udine l'associazione per il bambino in ospedale AVIO porterà a Babbo Natale i suoi elfi in visita ai piccoli ricoverati in uno spettacolo che avrà inizio alle 11. Il tour italiano del più famoso coro gospel d'America, l'Harlem Gospel Choir, fondato nel 1986 per le celebrazioni in onore di Martin Luther King, arriva questa sera a Trieste dopo due date da tutto esaurito a Udine. Lo show vedrà i componenti del coro cantare i più famosi brani della tradizione gospel, da Oh Happy Day ad Amazing Grace, alternati a brani gospel contemporanei, jazz e blues, con qualche incursione nel pop. Gli ultimi biglietti sono disponibili online, nei punti vendita autorizzati e presso le biglietterie del teatro. Inizio del concerto alle ore 21. Si svolgerà oggi il tradizionale concerto di Natale organizzato dal Comune di Udine per commemorare i tre agenti di polizia caduti in servizio l'antivigilia di Natale del 1998 a causa di un ordigno esplosivo. A tenerlo sarà l'orchestra Audimus assieme al coro FL Ensemble, alla soprano Marianna Prizzon e al tenore Federico Lepre diretti da Francesco Gioia. In programma musiche di Beethoven, Mendelssohn, Rossini, Mozart, Handel, Canciani e Domini, nonché brani natalizi arrangiati per orchestra sinfonica. L'appuntamento è alle 18 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Quarto e ultimo appuntamento con i concerti della Corte, gli appuntamenti pianistici proposti da Piano City Pordenone nella sala con pianoforte di Corte degli Orti dell'ex convento di San Francesco. Ad andare in scena con inizio alle 18 una contaminazione tra musica classica e musica jazz con l'esibizione di Nicola Guidolin e Filippo Alberto Rosso. Tradizionale concerto di Natale anche al Teatro Verdi di Trieste con un'antologia storica che parte da Giovanni Gabrieli, cinquecentesco compositore originario della Carnia e trasferitosi a Venezia dopo il percorso formativo a Monaco di Baviera per arrivare fino a Leocavallo, inizio previsto alle 20.30. E nell'ambito del programma di Nativitas, canti e tradizioni natalizie in Friuli Venezia Giulia, organizzato dall'Unione Regionale delle Società Corali, sono tre gli appuntamenti previsti per oggi. Nella chiesa di Santa Maria Nascente ad Artegna, con inizio alle 20.45, si esibiranno il coro Panarie e l'Alter Mix Quartet, per un viaggio tra suoni e melodie del mondo. A Cordovado, alle 20.30 all'Auditorium Marco Tondat, sarà di scena la corale Incanto. A Udine, infine, nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo, alle 20.45 sarà la volta della Corale San Marco e dell'ensemble di Ottoni, Aga Brass e Maurizio Degani. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 circa il consueto appuntamento con Wolf Evelyn D, che parlerà oggi del meraviglioso presepe scolpito dagli artigiani del legno Carnici e donato al Papa in Piazza San Pietro. Alle 11.20 andrà in onda un tranquillo weekend da paura a Tarvisio per i laboratori invernali, fiocchi di pace, poi in giro per i presepi nelle valli del Natisone. Gli amici di Radio Capodistria festeggiano Santo Stefano con lo spettacolo Bora al Politeama Rossetti di Trieste. E poi ancora il concerto di Natale del Teatro Verdi di Trieste e le iniziative del Natale a Gradisca di Sonzo. E alle 7.53 minuti è tutto per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Daniele Lettige e Giorgio Bearz con la collaborazione tecnica di Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 12.30. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.